Cantine di Franciacorta. Bentrovati, oggi siamo a Erbuscola, cantina Bellavista, 1.300.000 bottiglie all'anno da 190 ettari di vigne, azienda frutto della grande energia del fondatore, Vittorio Muretti. Le parole d'ordine di Bellavista sono tra le altre rispetto dell'uva, pazienza e soprattutto eccellenza. Sentiamo Francesca Moretti, figlia del fondatore e responsabile area vino del gruppo Terra Moretti. In 33 anni la parola d'ordine di Bellavista è stata sempre ricerca dell'eccellenza nel segno della contemporaneità. Se tu hai un punto di vista determinato, sai che cosa vuoi raggiungere, sai che devi lavorare nell'eccellenza, hai dei parametri sui quali assolutamente non devi cedere e quindi di anno in anno riesci a raggiungere la qualità, quindi devi sapere come lavorare in cantina, devi sapere come lavorare in campagna, tutto sempre nella tradizione e nella naturalità. È tutto, un saluto. Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.